Possiamo dire che questa è una settimana storica, o comunque questa è una decisione storica, una data storica? Direi di sì, perché oramai della famosa, oramai famosa guerra dei formati in alta definizione si parla da tanto tempo, direi da almeno 2 anni prima che questi formati poi sono diventati un prodotto commerciale, sono arrivati nel 2006 fondamentalmente, ma già dal 2003. Direi si parlava ampiamente di Blu-ray Disc HD DVD. Da questa settimana, da pochi giorni, appunto, sappiamo che HD DVD verrà dismesso. Va detto, va chiarito, perché forse non tutti lo sanno, che HD DVD non è un formato di Toshiba, o diciamo solo di Toshiba, è il formato ad alta definizione approvato dal DVD Forum, che è l'organismo che ha standardizzato il DVD e che prevede al proprio interno una rappresentanza di tutte le maggiori aziende, quindi anche Sony, Panasonic, Philips, Pioneer, eccetera, eccetera, tutte quelle che poi invece si sono schierate alla parte Blu-ray. Blu-ray è nato come un formato invece esterno al DVD Forum, dissidente da questo punto di vista, però diciamo, ha guadagnato l'adesione di tutte le principali case produttrici, e Toshiba si è provata da sola, cosa che l'ha trasformato un po' nell'immaginario collettivo nel formato di Toshiba. Quindi la decisione di Toshiba è una decisione semplicemente di un'azienda aderente al DVD Forum di non supportare più HD DVD, ma siccome era l'unica e l'ultima casa hardware che supportava questo formato, decreta definitivamente la morte di questo formato, e tra l'altro una morte molto rapida, perché non è una dismissione lenta, proprio da con marzo, e quindi con le ultime cose riguardo HD DVD verranno fatte entro il mese di marzo. Dopo la fine di marzo non si parlerà più di HD DVD.